A bordo campo di Dario Ricci. Beh, lo sapete, a bordo campo è platea per numeri uno e per campioni del grande sport. E allora, sicuro è un grande piacere e non certo una sorpresa avere ospite qui a Radio 24 a bordo campo il numero uno del fioretto maschile mondiale. Benvenuto Andrea Cassarà. Ciao, ciao a tutti. Allora, numero uno lo dicono in tanti, lo dicono anche le classifiche mondiali, perché Andrea è forte di due successi consecutivi in Coppa del Mondo, numero uno del ranking, campione del mondo in carica di fioretto individuale ai mondiali di Catania 2011. Andrea, un palmarès che ti dà una spinta in più oppure pesa sulla strada verso Londra 2012? No, guarda, bisogna sempre guardare avanti. E avendo appunto le Olimpiadi a tre mesi, è solamente appunto un maggiore stimolo. Londra 2012 già nel mirino, e ti stai dotando anche degli strumenti tecnologici per mantenere i contatti più giusti con i tuoi fan anche durante il periodo olimpico, vero? Ho visto che sei sbarcato ufficialmente sul web con un tuo sito ufficiale e smanetti parecchio tra Facebook e Twitter, eh? Sì, diciamo, è partito questo sito internet molto vivace, attivo, che fa anche dove è dedicata una parte anche ai social network, tittando da Twitter, poi rimanda a Facebook e quindi passa alle pagine e poi va sul sito. Quindi è una cosa molto, molto carina che mi fa magari anche riprendere momenti quotidiani di allenamento o condividere appunto stati d'animo durante l'allenamento, le trasferte. Ecco, senti, ma tu sei un twitterista incallito del tipo quelli che dicono oggi bella giornata, due allenamenti, buonanotte a tutti, insomma, che scrivi veramente no. Di tutto, oppure vai sul social network quando senti veramente di dover dire qualcosa ai tuoi fan? No, non sono non scrivo in maniera così assidua, diciamo che sicuramente non è... sono leggere le cose che uno va a scrivere, non sono concetti profondi, però la maggior parte delle volte sono più fotografie di momenti di ritiro piuttosto che di allenamento. O oggi ho scritto vado a correre al campo Calvesima, perché oggi ho una seduta di preparazione atletica al campo vicino alle mie palestre, quindi è come è stato di auspicio, oggi si va a correre lì, quindi è una cosa tranquilla, non scrivo buonanotte, buongiorno, non la intendo così, modo allargato alla comunità. Bene, almeno ci rassicuri sul fatto che insomma i post vanno tutti seguiti perché qualcosa ci raccontano dei tuoi segreti. Senti, da questo punto di vista Londra 2012 sarà forse l'Olimpiade più controllata, no? Abbiamo visto nei mesi scorsi il CIO già si è preoccupato di diffondere norme ferree per voi atleti e per tutti gli accreditati di fatto ai giochi in merito proprio all'uso dei social network. Non si potranno esprimere opinioni personali di tipo politico, di tipo religioso, opinioni sulle gare, eccetera, eccetera. Senti, che te ne pare? È un controllo legittimo oppure siamo al limite della censura? No, io penso che la politica, la religione deve rimanere fuori da un contesto olimpico, in quanto non c'entra nulla. Non vedo perché rovinare con aspetti che non c'entrano nulla nello sport a questo momento, quindi io spero che i tweet saranno di foto delle medaglie piuttosto che del villaggio olimpico, dei momenti comuni. Il resto direi che una volta ogni 4 anni si può anche lasciare fuori il resto. Occhio però a twittare poi le foto della tua stanza, perché poi magari arriva Jacques Rogge e ti fa scattare la multa. Quindi poi mano al portafoglio sempre pronta, eh? C'è poco. Quindi Rogge, non c'è trippa per gatti, come direbbero a Roma. Posso twittare tranquillo. Senti, fioretto maschile, che è l'arma d'eccellenza della spedizione azzurra, così come ancora di più forse lo è il Dream Team al femminile. Tra l'altro ritorna la gara squadre, che invece a Pechino 2008 non c'era stata, quindi doppia possibilità per voi, che però a Catania avete dominato la gara individuale con la tua vittoria e tutto il podio azzurro, poi però nella gara a squadre avete fatto flop, diciamo così. Difficile poi gestire le tensioni della gara individuale a poche ore di distanza per ricompattare il gruppo nella prova a squadre? Ma guarda, io ho esperienza di una già di un'Olimpiadi dove ho fatto la gara a squadre, che è Atene, e un'Olimpiadi da energia extra e cariche extra, cosa che magari al mondiale è capitato, perché avendo fatto una tripletta storica, secondo me sono salito in pedana un po' scarichi. Il discorso di un'Olimpiadi, sia pure a squadre, ci farà trovare in tutti i casi delle energie mentali, fisiche extra. Quindi questo non mi preoccupo. Mi preoccupo di arrivare bene alle Olimpiadi e quindi di pensare solo ad allenarmi. L'unico problema che dovremo avere ai giochi è quello dei nostri avversari, nient'altro. E quindi per arrivare pronti bisognerà, da qua appunto a fine luglio, inizio agosto, allenarsi sempre e senza le distrazioni. Pace fatta ormai con Andrea Baldini dopo le tensioni clamorose per molti aspetti che animarono la vigilia di Pechino 2008. Siete rivali oppure riuscite anche a parlarne ormai con serenità di quei giorni? Ma onestamente non abbiamo più ripreso il discorso in maniera diretta su quei giorni, anche perché non penso che ci faccia piacere nessuno dei due. Il discorso poi di rivalità, ma siamo due atleti di alto livello, quindi sicuramente è normale che ci sia, sarebbe sbagliato che non ci fosse. Appunto, io quest'anno vengo da un anno straordinario, lui è stato un po' più opaco, ma penso che sicuramente saremo tra i due pretendenti al titolo olimpico, quindi è normale che ci sia in un momento così della sana rivalità. Assolutamente, è legittimo, e quindi sia il fioretto poi a derimerla, diciamo così. A proposito di campioni olimpici, fa sensazione il fatto che non si sia qualificato per Londra 2012 Matteo Tagliariol, che a Pechino l'oro l'aveva conquistato e alla grande. Sorprendente, direi. Ti sei fatto un'idea dei motivi, oppure hai avuto modo anche di parlarne direttamente con lui? Ma io sulla mancata qualificazione di altre persone non voglio entrare nel merito, ho sentito che ha detto di aver male una mano e forse questa cosa gli ha precluso l'avvicinamento alla qualifica olimpica, per cui so che non sono di miei momenti, quindi penso che sia anche giusto lasciargli la propria serenità, la propria intimità. Torniamo un attimo al tema tecnologia, perché lo abbiamo visto poche settimane fa, no? Col gol non gol, anzi il gol non dato a Muntari nello scontro. Il gol non gol è gol. Ma da come lo dici mi sembri un po' milanista. No, guarda, io se devo simpatizzare simpatizzo forse più per la Juve, però da sportivo non posso dire che... Sì, era quasi gol, era quasi mezzo metro. Senti, adesso che possiamo riderne un po', perché per fortunatamente succedono cose anche più importanti nella vita, però vale la pena sottolineare che il tema Moviola, lo strumento Moviola, è diventato ormai protagonista proprio in pedana, nella scherma. L'abbiamo visto ad esempio, ultimo caso clamoroso, i mondiali di Catania, dove tante sono state le stoccate ricostruite al video. Da questo punto di vista, un bilancio di questa esperienza e un suggerimento al calcio, perché qua nel calcio, proprio per muoverli questi parrucconi dell'International Board, ci vogliono veramente le spinte, eh? Ma io, guarda, noi siamo uno sport un attimino più vecchio del calcio, quindi anzi di gran lunga, quindi se siamo riusciti noi a muoverci, penso che possa qualsiasi tipo di sport, ma bisogna vedere che interesse, cioè poi cosa vai a parlare tu durante la settimana se non ci sono questi casi qua. Dopo, altrimenti dopo si parla solo del risultato. Sul campo, tutto regolare, tutti amici, escono senza nessun torto, cioè. Beh, questa è una bella stoccata, però, eh. Però penso che fa parte, il calcio si gioca in campo e anche fuori, quindi questa fa parte di tutto quel mondo a cui noi non siamo abituati, quindi per noi l'importante in uno sport come il nostro è che si esca dal campo e se c'è stato un torto bisogna subito far luce, perché non abbiamo tutto quel seguito che possono avere altri sport, quindi secondo me in uno sport come il nostro, che è molto veloce, dove c'è un arbitro che decide e non ci sono neanche né assistenti né aiuti esterni, è importantissimo, quindi è un po' la rallenta un po', ma secondo me aiuta la meritocrazia. Ma senti, a proposito, proprio mi fai venire in mente dell'antichità della scherma, che insomma qualche annetto in più del calcio ce l'ha. Ma ti è mai capitato di affrontare invece un duello rusticano al di fuori della pedana, del tipo vediamocela faccia a faccia da uomini con un tuo avversario per qualche altro motivo, extra sportivo? Sarebbe interessante, sarebbe bello, nonché sarebbe illegale. Quindi dice già è meglio non andare. Essendo facendo parte del gruppo sportivo Carabinieri, esorto a non provare al di fuori della disciplina sportiva. E allora Andrea Cassarà, risposta da 10 lode che ti vale un encomio anche dai superiori dell'Arma, grazie per essere stato nostro ospite sulla strada verso Londra 2012, occhio perché da adesso in poi ti seguiamo anche come follower su Twitter, aspettiamo le tue foto. Ok. A bordo campo. Un campione davvero speciale per atleti altrettanto speciali. Di questo oggi parliamo qui a bordo campo con un big dello sci azzurro che ha messo all'asta, adesso ci racconta che cosa è successo, qualche ora di insegnamento sulle nevi a dei campioni che da domani saranno protagonisti al Sestrier. Intanto benvenuto a Giorgio Rocca. Buongiorno a tutti. Giorgio Rocca, per i pochi che non lo conoscessero, ha nel palmarès 3 bronzi mondiali, una coppa di slalom speciale e poi soprattutto dopo Alberto Tomba ha restituito allo sci azzurro e ai tanti tifosi, ai tanti appassionati il gusto di fermarsi nel pranzo domenicale per vedere come finivano le sue gare. Questo devo dire è il regalo più bello che ci hai fatto nella tua carriera, Giorgio. Sì, quello è stato un buon momento. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è che non sia durato moltissimo, perché poi nel fine stagione ho avuto un po' di infortuni e quindi è andata un po' così, però vabbè, è stata una buona carriera comunque. Giorgio, da domani però da campione diventi maestro di sci, vero? Perché sulle nevi del Sestrier aiuterai a sciare degli atleti davvero particolari, perché inizia una manifestazione di cui tu sei anche tra i protagonisti. Sono un testimonial, ho sempre fatto delle attività col Tremedusa per le Iene, per sostenere il lavoro che fanno anche i volontari, che danno la possibilità a questi ragazzi diversamente abili di poter fare sport, in questo caso sport invernali sulla neve con i campionati italiani Special Olympics a Sestriere, quindi questa è una bellissima occasione dove io magari dando lezioni a normodotati posso raccogliere soldini per far andare loro poi ai mondiali di Corea dell'anno prossimo. Speriamo che chi viene e sci con me si diverta, lo faccio in questa occasione con la possibilità di poter vedere i piccoli campioni o i campioni che saranno a Sestriere, quindi vorrei riuscire a fare queste lezioni lì per questi giochi e dare possibilità a loro di sciare con me, però di riflettere anche un po', di capire che hanno fatto un'opera di bene dando dei soldi non a me ma a loro. A proposito di allievi invece, direi che quella di quest'anno, Giorgio, è stata una stagione straordinaria per il nostro sci, soprattutto per gli slalomisti, vero? Abbiamo ritrovato... Sì, sono venuti fuori dopo anni forse di assenza, perché comunque io, devo dire la verità, non ho avuto mai una squadra molto forte, tranne Mölg a tratti, Razzoli alla fine, perché comunque avere dei compagni di squadra forti in squadra è noioso e non ti fa essere molto leader, però insomma la grande valanga azzurra dei tempi era forte perché tutti erano forti e tutti erano molto capaci di avere gli avversari più forti in squadra. In questo momento è così, sono in 3-4 che si giocano sempre posti nei primi 10 sul podio e nei primi 10, quindi sai sempre di allenarti con gente molto forte e quindi credo che in parte sia anche un po' il lavoro che hanno fatto con me, quindi che sta venendo fuori un po' anche quello. Stagione invece difficile per Razzoli, no? Il campione olimpico di Vancouver che ha attraversato un'annata opaca. Sì, un po' di piccoli infortuni non ti permettono di essere perfetto e poi entri forse in un vortice che ti rende la vita un po' più complicata sotto il punto di vista mentale, quindi magari ti fai problemi che non dovresti avere. Io guardandola da fuori adesso chiaramente è più facile per me, guardando da fuori, poter giudicare perché sono un po' più distaccato, ci sono già passato. Quando ci sei dentro sei talmente preso da mille complicate pensieri che pensi di avere un problema enorme, invece magari sono piccoli problemi che sono soprattutto mentali. Ecco, alla luce dell'esperienza passata, della grande pressione che ricordo vivesti alla vigilia e durante le Olimpiadi di Torino, un suggerimento a Giuliano ti senti di darlo, vista appunto la tua esperienza? È stato ed è un grande campione, è stato straordinario in una grande occasione con una forza mentale enorme, deve solo ritrovare dentro di sé soprattutto la sua convinzione di essere forte, di essere molto forte e di lasciare da parte tutti quelli che sono problemi che ci si creano e basta, essere molto positivi aiuta sempre, lui lo è, quindi credo che ci voglia solo un po' di quello e nella annata prossima sicuramente si ritroverà. Una tua valutazione sui vincitori delle coppe, perché abbiamo visto in campo femminile la FON non ha rivali e ormai ha scritto pagine da leggenda dello sci. Hirscher, nome nuovo che finalmente in campo maschile ha trovato la consacrazione. Quando sarà il tempo di un polivalente azzurro che possa puntare alla grande coppa? Ma polivalenti azzurri è difficile perché comunque in Italia siamo purtroppo troppo monospecialisti, quindi ce la potrebbero fare i discesisti perché sono dei buoni super gigantisti o dei discreti combinatisti, ma i slalom gigantisti sono sempre stati, e io ho sempre un po' lottato contro questa monospecialità che rende il tutto molto più noioso. Forse ha più successo perché riesce a raggiungere in una disciplina il successo, però Hirscher dimostra che con gigante slalom e con dei buoni super G è riuscito a vincersi la Coppa del Mondo. Quindi non è detto che se uno non è discesista come nei detti soliti, se non è discesista super gigantista non riesce. Questa cosa è importante, riuscire mentalmente a creare, soprattutto prima nei tecnici, nei dirigenti e poi nei ragazzi, la convinzione di poter essere dei buoni sciatori in tutte le specialità, perché uno sciatore completo è capace di andare in tutte le specialità. E allora, insomma, il consiglio da seguire, quello di Giorgio Rocca, è semplicemente avere un po' di coraggio che potrebbe allora, essere parecchio utile. Non basta solo il coraggio, bisogna avere anche moltissima forza di volontà, perché se plurispecialista richiede forse un quarto, un terzo in più di energia, perché ti devi allenare molto di più. E allora seguiamo questa strada. Intanto grazie a Giorgio Rocca per essere stato il nostro ospite qui a Radio grazie 24 a bordo campo e allora l'appuntamento sulle nevi del Sestriere come maestro di sci in bocca al lupo, peccato non esserci, anche se a me 3 ore non basterebbero neanche per mettere uno scarpone, lo confesso. Si può sempre migliorare, chiaramente ci vuole dedizione e tempo. A bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete contattarci al nostro indirizzo mail a bordocampo@radio24.it, scaricare la puntata dal nostro sito internet www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e per il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.